sentivo prima l'altoparlante che annunciava il nostro arrivo dicendo vice campione d'Italia, sono rimasto un attimo così un po'. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Attenzione a Lukaku, le lascia sfilare, va contro Keita, duellare in area di rigore! Lukaku gira e trova il gol del 1-0, sono 30 in stagione! Quanto è importante anche Conte in questo momento e soprattutto avere continuità nell'avere Conte anche l'anno prossimo? Ah, è importante perché la squadra sta crescendo e dobbiamo continuare così. Ancora Eriksen, appena entrato, trova il gol del 2-0, Christian Eriksen. Cristiano, ripeto, ha bisogno comunque di alcune situazioni che magari ti possano girare in positivo e sa che faccio delle scelte per il bene dell'Inter. Il fatto che lui sia entrato, si sia calato subito nella partita, abbia fatto gol è importante. Una partita sporca e nel momento in cui ci dovevamo sporcare ci siamo sporcati e questa è una cosa molto positiva perché i ragazzi stanno dimostrando di crescere nella voglia comunque anche di difendere il risultato. Questa è una partita dentro fuori e sono contento per la prestazione, per quello che hanno dato i ragazzi. Eccoci qui ragazzi in diretta, 14.02, ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Paolo Corleoni che è in regia, Gianmarco Ferronato per questo e per gli altri montaggi. Vi do subito i contatti, 800 24 00 24, numero verde per intervenire, aspetto da adesso le vostre prenotazioni, siamo in onda come in tutto questo mese di agosto fino alle 15.30, vi annuncio già che alle 15 ci sarà un ampio spazio per i vostri interventi, dunque 800 24 00 24, cominciate a prenotarvi, poi 349 238 6666, sms, whatsapp. Oggi giornata con tanti argomenti, due su tutti. Uno l'abbiamo sentito racchiuso nella copertina, quindi il debutto dell'Inter in questa seconda fase dell'Europa League. E cercheremo di capire che impressione vi ha fatto. L'altro è quello che ieri il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, preannunciava come l'Independence Day, e cioè il giorno in cui sono arrivate di notte in realtà le firme per la cessione della Roma da Pallotta a Friedkin. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao. A cosa dedichi il tuo radio tweet? No, dove sei? Dedico il mio radio tweet a dei caselli autostradali ridicoli, no, a parte... Accosta, così riusciamo a parlare serenamente. Di personale. No, ma è veramente la vita è un film. È tipo che non entrava la carta di credito e adesso stiamo qui attraversando. Va bene. E dovremo adesso pagare online. No, sono così strati scampoli di vita quotidiana. No, lo dedico sicuramente alla Roma, lo dedico a Friedkin, poi avremo modo di parlare dell'Inter e anche della Roma di oggi. L'abbiamo affrontato tante volte questo argomento. Insomma, il consiglio non richiesto e l'augurio è che ci sia soprattutto una maggiore vicinanza al tifoso. Questo secondo me è il vero punto interrogativo. Niente, c'è qualche problema di linea, adesso vediamo di riagganciarla e tornare a parlare con Pierluigi Pardo. Massimo Paganin, ciao. Ciao Giovanni, un saluto anche Piera, so che è in collegamento, spero sì. Mi senta. Adesso, pomeriggio a tutti. Adesso lo recuperiamo. Massimo, invece ti chiedo, visto che ci siamo, un radio tweet sull'Inter di ieri sera, che voto dai, se ti è piaciuta, no? Sì, non mi è piaciuta, una squadra concreta, adesso che è arrivato il momento della verità in Europa League, credo abbia giocato contro una squadra che fa giocare male gli altri. Ho visto, non ha mai costruito dal basso il Getafe, quindi è una di quelle squadre che fa giocare male le altre squadre. È vero che dopo il lockdown il Getafe ha fatto poco nel suo campionato, però nella partita secca abbiamo visto che una squadra che poteva metterla in difficoltà. È stato così per i primi 20 minuti forse. Il calcio di rigore secondo me è un'azione estemporanea, nel senso che è una di quelle azioni adesso che viene punita con il calcio di rigore, però direi che ai punti l'Inter ha meritato di vincere. È stata dentro la partita perché in ogni gara ci sono tante partite da giocare, no? Quella quando hai tu la palla, quando scendono gli avversari, quando ti mettono in difficoltà, l'Inter è stata brava a giocarle tutte, così come ha fatto con l'Atalanta, è rimasta bene all'interno della partita. Poi abbiamo visto come il ritmo gara dell'Inter adesso sia molto elevato e per tutti i 90 minuti è riuscita, a mio modo di vedere, ad imporre il proprio gioco. Sì, si era già visto nelle ultime partite di campionato, soprattutto Napoli-Atalanta, che la gamba c'era. Sì, è importante, sono state due partite importanti alla fine della stagione, sembra che poteva decidere che andava bene così l'Inter, nel senso che era finita ormai la stagione, lo scudetto ormai era della Juve, però ha dimostrato, insomma, dal punto di vista mentale di aver fatto un ulteriore passo in avanti, di vincere due gare importanti contro due squadre che potevano essere dirette concorrenti o potranno essere dirette concorrenti nella prossima stagione, e lo ha fatto con una dimostrazione di forza. Questo è molto importante nel percorso di crescita dal punto di vista mentale, quello di dimostrare di essere in grado di voler vincere tutte le gare, e poi lo ha trasferito all'interno dell'Europa League nella partita con il Getafe. Ieri ci chiedevamo, Pier, vediamo se avevamo ripristinato il collegamento. No, ma io avevo sentito il tempo. Okay. Siamo noi che non sentivamo te. No, diciamo, ieri ci chiedevamo se aver messo l'Europa League in fondo alla stagione, quindi tolto ogni alibi di contemporaneità col campionato, con la lotta per la Champions League, lo scudetto, finché c'è stata lotta a scudetto, potesse in qualche modo essere uno stimolo in più. Credo che la risposta per l'Inter, ma spero anche per la Roma di questa sera, tra l'altro nel contesto di una giornata, e poi ne parleremo ampiamente, che da un certo punto di vista è storico per la storia di questo club, io credo che ieri l'Inter abbia dato la prima risposta, e cioè nei prossimi 10-12 giorni noi vedremo finalmente squadre italiane che giocano per vincerla questa Coppa, non semplicemente per esserci. Credo di sì, perché l'Italia, a differenza di altri paesi, oggi la Roma gioca contro il Siviglia, che è la squadra forse in Europa che più focus ha dato in questi anni e più successo ha costruito con l'Europa League, con le 5 vittorie, le 3 di fila, quindi insomma ci sono altri paesi e altri club che sicuramente non hanno snobbato questa competizione. In Italia qualche volta è successo, e come parziale attenuante di questo, che comunque è un peccato, secondo me è indiscutibilmente un peccato, c'è sicuramente il fatto che in qualche circostanza l'Europa League sia veramente alternata da vicino con snodi fondamentali della stagione. Ripeto, non è un attenuante che secondo me funziona, perché è stato comunque un peccato quello, però stavolta non c'è. Può essere un vantaggio. Ricordiamo l'esempio di Conte alla Juve, quando forse avrebbe dovuto dare un pochino più di focus all'Europa League invece di inseguire così tanto quel record clamoroso, ma insomma col passato, col Sellori poi non si va lontano. Ieri ho visto una squadra secondo me non straripante, perché secondo me nei 90 minuti non è stata l'Inter, per me non è stata l'Inter di Bergamo. Spero sinceramente che l'Atalanta che vedremo contro il Paris Saint-Germain sarà migliore, ma insomma se dovessi fare un concetto di proprietà transitiva mi preoccuperei quasi, no? Perché ieri non ho visto una squadra così brillante come l'avevo vista invece contro l'Atalanta. E penso che però il risultato sia stato portato a casa e adesso tutto può succedere. Sì, io dico che ieri sera è stato anche difficile giocare, no? Si sapeva che sarebbe stata una partita brutta e sporca, probabilmente con un arbitraggio un po' meno tollerante sarebbe stata un po' meno sporca e un po' più bella, e con questo non... Poi l'arbitro si è preso il suo 6, secondo me è meritato dentro le pagelle, ma non mi è piaciuto tanto nella gestione, perché un conto è far correre una partita che corre, un conto è far correre una partita in cui tutte le volte che si pulisce un pallone dal pressing arriva sistematicamente il fallo e il ritardo senza che ci sia un cartellino fino al 90esimo, e poi a un certo punto anche l'Inter si è adeguata, visto che questo era lo stile. Mi rispondete secchi tutti e due, chiedo anche agli amici da casa 800 24 00 24 per prenotarsi. L'Inter che avete visto ieri sera è la favorita per l'Europa League, sì o no, Massimo? Ma io credo che sia sicuramente tra le favorite. Vista ieri sera è chiaro che, ripeto, conta molto la partita conta portarla a casa, e non è stata una bella partita, ma perché per giocare bene al calcio bisogna essere in due, poi essenzialmente non basta una squadra e basta, una squadra sola, pardon. Io credo che l'Inter sia tra le favorite per vincere questa competizione, perché la qualità della rosa, lo storico e ovviamente la mentalità è arrivata secondo in campionato, per me può vincere questa Europa League. Pier? Secondo me è tra le favorite, scusa la risposta poco originale. Sì, ma tra le favorite, tra le due, le tre, la favorita, le quattro, perché ne restano otto con stasera. Sicuramente lo United, sicuramente la squadra che viene fuori da Roma-Siviglia, che secondo me è una... è una semifinale, se non vogliamo dire una finale, ma è una semifinale. Che per l'Inter sono tutte e due dall'altra parte del tabellone. Esatto, tra l'altro. No, ma insomma, io credo che l'Inter... sì, probabilmente l'Inter e United sono due squadre numeri alla mano con qualcosa in più, però secondo me rispetto... allora, adesso qua ti tiro fuori il concetto del liquido, ma veramente stasera te lo estremizzo, perché oggi te lo estremizzo, perché la differenza vera secondo me tra Champions e Europa League, l'abbiamo vista mille volte, è che in Champions alla fine ci sono delle gerarchie un po' più grandi, no? Nel senso che poi le big, le 4-5 squadre con qualcosa in più di solito vengono fuori. Poi c'è stato pure l'anno in cui ha vinto il Porto di Mourinho, ci sono state anche delle sorprese, però di solito vincono le favorite. In Europa League invece spesso arrivano delle squadre che, insomma, il Dnipro è arrivato in finale e perse contro il Siviglia a Varsavia, cioè le distanze sono molto più piccole. In più, con una competizione come quella di quest'anno, che è strana, che vive dell'eccezionalità di quello che è successo, dove non c'è più neanche nei quarti di finale, nella semifinale, la doppia sfida, ma la partita secca, siamo proprio al casino. Quindi secondo me le distanze sono minime. Detto questo, Inter, Manchester United secondo me sono le due squadre più forti. Subito dietro c'è la vincitrice stasera di Roma Siviglia, di Roma Siviglia. Tornando invece all'Inter, Massimo, io credo non sia un caso se in questa serie di 5 partite, ieri è stata la quinta consecutive senza prendere gol, in un certo senso il tratto comune sia stato la progressiva sparizione di Eriksen dal campo. Per una questione di equilibri, Eriksen grandissimo giocatore, ma è chiaro che Conte, mi pare sia chiaro, insomma, preferisce un altro tipo di Inter. Ma credo sia proprio il sistema di gioco. Conte predilige un 3-5-2, è più abituato a quello, ha provato con il 3-4-1-2, quindi con il trequartista e due punti, abbiamo visto che c'era poco equilibrio, probabilmente lui è indispensabile l'equilibrio, e si è visto insomma in queste partite nel quale l'Inter non ha preso gol. Credo dovrà adattarsi un po' Eriksen a quello che vuole l'allenatore, un po' l'allenatore cercare di capire quello che vuole da lui, però ripeto, le squadre, ripeto, non ho ancora detto, ma le squadre adesso sono fatte di profondità di rosa, hai dei giocatori importanti, sai che Eriksen è uno di quei giocatori che ti può dare la possibilità di cambiare la partita in corso e soprattutto di cambiare il sistema di gioco, questa è la cosa più importante, quindi indipendentemente da tutto credo che sia un giocatore a disposizione di Conte, e poi sarà l'allenatore che decide di fare delle scelte, questa cosa più importante secondo me. Anche se il tema si sta integrando, che ha ripetuto ieri Conte, dopo 6 mesi fa anche un po', insomma ti dà l'idea in ogni caso che certo, ci sia un giudizio dentro. La notizia è questa, cioè Massimo ha perfettamente ragione, cioè Eriksen è la variante, Eriksen è il giocatore che in una rosa profonda ti può dare uno spariglio, no? Ti può cambiare l'idea di partenza, non è il punto di partenza dei ragionamenti tattici di questa squadra, e questa è una notizia, onestamente, considerato il valore di questo giocatore, io rimango convinto che l'Inter abbia fatto un ottimo investimento, perché Eriksen è stato comprato bene, è un giocatore di assoluto livello, di grande esperienza e personalità internazionale, quindi secondo me è un giocatore, è un ottimo acquisto, anche fosse soltanto per fare trading, secondo me l'Inter l'ha preso molto bene, ma io penso che possa diventare un giocatore importante. Oggi non è un titolare, oggi è una variabile, una variante interessante dal punto di vista tattico, però insomma questa è una notizia. Non ci si può girare attorno, e probabilmente al di là del fatto che Conte non lo volesse così tanto, è una delle poche cose che secondo me si possono imputare a Conte in questa stagione. Secondo me ci sono delle concause, no? Se il matrimonio non sta funzionando, la colpa sarà sicuramente del danese. Comunque ieri è un po' di tutti e due, certo. È un po', però sì, sicuramente non si è trovato. Ultimo giro di domande per tutti e due, vi faccio fare l'ufficio facce di ieri sera di Beppe Marotta e Antonio Conte. Chi è che si vuole dilettare a provare a interpretarli tra vai, silenzi? Vai, Marotta a un certo Massimo, punto vai. Si è messo a marcare in intervista e ha detto: sono aggrappato alla balaustra, pur di non sbilanciarmi. Massimo. No, beh, credo, se sono queste situazioni qua verranno rimandate al dopo, qualunque cosa debba accadere, credo se ne parleranno, se dovranno parlarne, ne parleranno dopo l'Europa League, non c'è nulla da fare, e credo sia la cosa più giusta in questo momento, ci si deve concentrare su quello e poi ognuno prenderà le proprie decisioni, credo. È fondamentale, sono tutti e due uomini di calcio, si conoscono bene, sanno quelli che sono i tempi, e di conseguenza credo che indipendentemente da tutto, da qualunque faccia tu possa vedere, ognuno siano concentrati sull'obiettivo dell'Inter, che è quello di poter vincere l'Europa League, quindi io credo sia fondamentale questo essenzialmente, e credo che ripeto, tutto quello che si devono dire o si dovranno dire lo faranno nel momento in cui l'Europa League non ci dovesse più essere, e quindi chiariranno quelle che sono le rispettive posizioni. Ieri hanno messo su una bella maschera, Pier, li hai visti? Ma tutti e due, No, ma sicuramente, guarda, sulla tempistica siamo tutti d'accordo. Ora bisogna capire la sostanza. La sostanza è che, da quello che mi risulta e in qualche modo abbiamo capito, lo sfogo è piaciuto proprio poco. Ma poco. Aggiungiamo due poco così. Diamo il senso. Detto questo, no, bastava vedere ieri Marotta. Ieri Marotta avrebbe potuto fare qualunque cosa per comunque aprire uno spiraglio. È rimasto fermo dietro la sua maschera, che io non interpreto come una chiusura, ma interpreto come un quando si farà un chiarimento. Si farà un chiarimento, non sarà una passeggiata di salute per nessuno. No, io sai come la penso. Io penso che Conte vada tenuto, perché secondo me sono molti più i pregi dei difetti. Mettiamola così, perché poi quando tu prendi Conte, come dico ormai da tre giorni, per quello che ti dà di quello che ti toglie, ecco. No, ma soprattutto lo fai quasi per farti una psicanalisi, un'autopsicanalisi, cioè lo fai apposta perché ti vuoi dare una scossa, anche se questa scossa in certi momenti è sgradevole e l'altro giorno è stata sgradevole, però insomma, appunto, abbiamo tutti le stesse fonti, magari sono diverse, quindi è un'ulteriore conferma sul fatto che lo sfogo è piaciuto pochissimo. Ed essendo piaciuto pochissimo, il chiarimento ci dovrà essere, dovrà essere di sostanza. Cioè, si può andare avanti, ma queste cose non devono più succedere. Credo che sia questo, insomma, i soldoni, quello che dovrà avvenire, che secondo me è giusto che avvenga, perché non è che sia piacevole sentire un allenatore che dice quello che ha detto l'altro giorno, ma secondo me sarebbe un errore clamoroso per l'Inter buttar via questo anno, questo percorso e la qualità di Conte, che secondo me è discutibile. Sì, insomma, per usare una metafora o un'immagine, si chiuderanno dentro una stanza, che ci sia o non ci sia l'Europa League, ma insomma si chiuderanno dentro una stanza. Allora, fammi salutare Massimo Paganin. Ciao Massimo. Ciao, buon lavoro. Ciao Pier. Ciao Massimo. Allora, siccome ieri abbiamo visto il Getafe e stasera vedremo il Siviglia, sabato vedremo il Barcellona e poi via via tutto il resto, andiamo in Spagna. Una squadra che ha 17 partite che non hanno nessuna sconfitta, che sta in un buon momento, ma noi siamo anche in un buon momento. Dopo è una squadra molto intensa, molto dinamica, molto pressionante. Sarà una partita difficile. Hai portato un po' di energia a Lorenzo, Insigne? Certo. Ce la può fare il Napoli a Barcellona? Ti chiamo Italia, tutta Italia. Ce la può fare il tuo amico che tu usa a Barcellona? Lo spero io, spero tutta Italia, spero, no? Che la Roma a Siviglia, no? Gran partita, anche lì c'è da sperarci. Soprattutto. Il tuo amico Gattuso? Sta in forma, come sta in forma. Alla grande, come ciao. Sempre. Ciao. Andiamo in Spagna dal nostro Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo. Buon pomeriggio a te. Allora, ieri abbiamo visto il Getafe. C'era stato descritto, lo conoscevamo per visioni televisive, come una squadra tosta, dura, sporca. Devo dire che è stata una squadra tosta, dura e sporca. Non so se sì, dobbiamo però, sorprenderci. Ecco, limitatissima tatticamente, tecnicamente soprattutto, insomma, non c'ha quasi niente. Infatti, per metà campionato differenza... ha viaggiato in zona Champions, sì, però. Sì. Quindi quanto pesa secondo te il 2-0 che hai visto ieri dell'Inter? A me personalmente l'Inter non è piaciuta tanto, perché ha faticato troppo con una squadra che, ricordiamo, ha vinto una partita delle ultime 12, ha segnato 6 gol in queste 12 partite, ne ha perse 6, e l'Inter, cioè, voglio dire, se Molina non sbaglia il rigore, cioè, si apre di nuovo uno scenario che chissà dove può portare. Cioè, io se l'Inter vuole vincere l'Europa League, per me deve fare un passo avanti, cioè, perché il Getafe è in questo momento, ricordiamoci che sì, a marzo era quarto, ha finito ottavo, fuori dall'Europa League, e adesso è uscita anche dalla competizione. È una squadra che si è persa completamente, per cui insomma, a me ieri sera l'Inter che ho visto sinceramente mi ha lasciato dei dubbi. Spero che migliori, perché che insomma, voto gli dai? Assolutamente provare a vincere 5 e mezzo, quindi lo tieni sotto 6? No, l'Inter. Passata sicuramente, no, almeno 6 sicuramente, perché comunque ha vinto 2-0, è passata tutto a posto, però se, per vincere la competizione ci vuole altro. E Siviglia come sta? Che lo vediamo questa sera con Siviglia sta bene, al contrario. La descrizione che, gli ha da, che avete diciamo appena fatto ascoltare di Fonseca, era per Fonseca, me è corretta, sì. Appunto, le tante partite senza sconfitta, è una squadra seria che sa fare diversi tipi di calcio, cioè è una squadra che sa difendere, sa essere diciamo rocciosa, però ha anche fantasia, ha tanti, diciamo, Banega è in grande forma, Ocampos lo stesso, ha delle varianti perché in panchina comunque può avere uno come Suso, insomma ha diverse situazioni e per me è un avversario, in questo momento lo vedo un pochino superiore alla Roma anche come momento di forma, come così come testa, però speriamo, finora è andata abbastanza bene alle italiane con le spagnole, cerchiamo di andare avanti così tutta la settimana, insomma, no? Pensate che la Spagna rischia di restare fuori dalla Final Eight di Europa League, che di per sé sarebbe una notizia clamorosa se avvenisse questa sera con l'eliminazione del Siviglia, visto che negli ultimi anni l'Europa League è stato un po' il giardino di casa della Spagna, così come la Coppa UEFA lo fu per noi negli anni 90. No, Pier? Tutto cambia nella vita, speriamo che cambi, speriamo, anche stasera. Un po' l'abitudine conta, sicuramente un po' l'abitudine, il fatto che Siviglia e Europa League giochi nel giardino di casa, secondo me un po' può contare, però insomma, quest'anno secondo me ci sono talmente tante variabili, talmente tanti aspetti veramente eccezionali, nel senso proprio autentico del termine, che secondo me oggi è veramente una partita 50-50. Siviglia sta bene, anche la Roma sta bene, però insomma, se dobbiamo valutare le ultime partite, sempre con qualche fragilità, ma insomma la Roma nelle ultime partite è cresciuta tanto, insomma ha portato a casa l'obiettivo, che era un obiettivo fondamentale, cioè quello di non fare il preliminare l'anno prossimo, ha vinto delle partite anche di prestigio con tutto, insomma, con tutte le tare che si devono fare, ad esempio sulla Juve dell'altra sera, però insomma secondo me i segnali sono psicologici, sono buoni, quindi insomma per me è 50-50. Guarda, tra le variabili non so cosa ne pensate tutti e due, che un po' di calcio, di anni di calcio ce li avete alle spalle, c'è anche capire che tipo di impatto può avere il modo in cui si sono svegliati questa mattina i giocatori della Roma, tutto l'ambiente, Fonseca scoprendo che il club è stato venduto dopo mesi, settimane, mesi di voci, che dunque ci sarà possibilità di aprire un nuovo ciclo, che ci saranno investimenti, magari per qualcuno il pensiero che resterà a Roma e credeva di dover andare via, credo siano cose che possano in qualche modo, no, spostare nell'immediato per entusiasmo anche l'approccio di una squadra, o no? Che pensiero avete? È una buona notizia. Sì, però la vero che la Roma non aveva dei problemi, diciamo un ragionamento molto terra terra, la Roma non aveva dei problemi, diciamo, di stipendi, di cose di questo tipo, ecco, tanto per essere chiari, quindi non è che da questo punto di vista la gestione Pallotta, della quale poi parleremo, ha mille difetti, ma dal punto di vista pratico nella testa dei calciatori non era una di quelle situazioni veramente patologiche che ogni tanto ci sono, però insomma comunque l'entusiasmo c'è, io credo, la voglia di far bene, il fatto che ci saranno gli occhi di un nuovo proprietario, insomma secondo me è comunque un'opportunità rispetto a prima, poi la gestione Friedkin ovviamente come tutto dovrà essere valutata alla prova dei fatti, però oggi è il giorno dell'entusiasmo, lo è in misura importante per i tifosi, credo che lo sia anche per i calciatori, quindi francamente non vedo negative, posso immaginare un effetto positivo, anche se come detto non è che ci fosse poi nel quotidiano dei giocatori un problema o una situazione insopportabile. Sì, non è che sentessero dici sulla loro pelle, però sai anche leggere tutti i giorni come hanno fatto per settimane, per mesi, che si sarebbe smobilitato, che la Roma era destinata a un ridimensionamento, che sarebbero andati via i migliori se non si riusciva a vendere gli altri, quelli considerati degli esuberi. In ogni caso io immagino che oggi ci sia un po' più di chiarezza. Filippo, non so come la leggi, sì, tu da lì. No, sicuramente, mi sembra Piera ha fotografato perfettamente la situazione, insomma, può essere solo positivo, insomma, non penso che abbia possa influire sulla partita di stasera, però se per caso, diciamo, le conseguenze sono solo positive, sia a livello psicologico che, insomma, ecco, proprio anche pratico, per cui, insomma, buone notizie per la Roma, adesso sono arrivate prima fuori dal campo, adesso speriamo che ne arrivino altre stasera in campo, no? Sì, come sta il Barcellona? Siamo anche a tre giorni da Barcellona-Napoli. Mi piace che Pier dice chi lo sa. Pier dice che bisogna cambiare, no, queste grandi strisce devono essere interrotte. Esatto, proprio io subito ho pensato, dico, sono 12 anni che il Barcellona arriva nei quarti consecutivi, no? Ecco, basta, no? Noi facciamo che non arrivi a 13 e si fermi a questa grande striscia di 12 quarti consecutivi in Champions. No, il Barcellona ovviamente dipende tutto da Messi, però è una squadra con tantissimi problemi. Ricordiamo, per chi se lo fosse dimenticato, che non sono squalificati Busquets e Vidal, Arthur è un giocatore della Juve, quindi il centrocampo che teoricamente poteva essere titolare o comunque tra due dei tre titolari non giocano, e per cui insomma ci sono dei problemi, devono fare, chi che si tende deve fare delle scelte, e ricordiamo anche che per chi che si tende è solo la seconda e uno, diciamo, c'è, molti spingono o Sergio Roberto o Ricky Pucci, vedo che stanno spingendo molto il centesimo canterano, però, degli ultimi anni. Esatto, bravo, però non sempre sono stati garanzia, non ha mai giocato in Champions. E anche Quique Setién, ricordiamo che è la sua seconda partita in Champions, perché la prima è stata a Napoli, è arrivata a 61 anni giocando allenando al margine del grande calcio. Il Napoli ha un'occasione per me enorme, perché comunque il Camp Nou vuoto non è il Camp Nou pieno, e c'è una situazione di tanta incertezza, di tanta, anche come si può dire, di attriti vari all'interno del Barcellona, che il Napoli deve assolutamente cercare di sfruttare. Poi dopo, voglio dire, se Messi fa 3 gol, arrivederci e grazie, e va bene così, insomma. Però la situazione, questo Barça è molto molto vulnerabile, di più non possiamo dire, insomma è sempre il Barcellona. Di più forse non poteva sperare neanche il Napoli. A proposito di, esatto, vulnerabilità, e quindi tocchiamo l'ultimo tasto, andiamo a Madrid. Mi pare di aver capito che a Madrid, più che a pensare di ribaltare il City, ricordo l'andata 2-1 per il Manchester al Bernabeu, siano le prese con le rotture totali dentro lo spogliatoio, con intrecci di mercato, con insomma tutta una situazione che dà poco l'idea, Filippo, ma probabilmente ci stiamo sbagliando tutti, che ci possa essere il ribaltone. Beh, voglio dire, guarda, loro hanno un problema, Madrid ha un problema, manca Sergio Ramos, senza il capitano le cose, mi sembra che abbiano perso 5 delle ultime 6 partite in Europa quando non c'era lui, e questo, diciamo, cambia molto le cose. Il Madrid è sempre il Madrid, in Europa soprattutto, galvanizzato dalla vittoria in Liga, per me può anche farcela, però la vedo assolutamente complicata per il livello e il valore dell'avversario. Rispetto alle situazioni di spogliatoio, qui siamo di fronte a un caso clamoroso, insomma il caso Bale, uno che guadagna 17-18 milioni netti a stagione, ha ancora 2 anni di contratto alla fine di questa stagione e non viene neanche convocato, pensa più a giocare a golf. Non si parlano, leggero oggi, non si parlano, sì, non si rivolgono sguardo. No, nulla di nulla. Capito? C'ha ancora 2 anni di contratto. È un giocatore, poi tra l'altro, attenzione, un giocatore che è stato fondamentale nelle 4 vittorie del Madrid in Champions. Insomma, è molto strana questa situazione. E a margine c'è anche il caso di James Rodriguez, che proprio uno scarso non era, però che a Madrid non si è mai trovato, e un altro che è stato lasciato a casa. Insomma, io penso che tante squadre europee prenderebbero volentieri 2 giocatori di questo, sì, tipo. E niente. Beh, questa c'era, è la situazione. C'era la famosa liaison con Ancelotti, no? Su James, veniva accostato, sì, moltissimo l'estate scorsa al Napoli. No, ma anche lì non mi sembra che i problemi non manchino, ma secondo te dal punto di vista fisico come stanno questi spagnoli? Nel senso che io ieri sono d'accordo con te, mi aspettavo una differenza sul piano del ritmo superiore, no? Mi aspettavo un Inter più in controllo di quello che poi è stato, il fatto che ha vinto la partita. Il fatto che abbiano finito prima, come lo possiamo leggere? Secondo me è sicuramente positivo, perché hanno fatto 4-5 giorni di vacanza che erano necessari. E per me le squadre spagnole hanno avuto la situazione ideale, no? Le tedesche forse si sono fermate troppo presto, le francesi sono partite troppo tardi, e le italiane pure hanno finito molto tardi. Per me la situazione ideale era quella, diciamo, nella quale si sono trovate le squadre spagnole. Così però parlo veramente come idea personale, non, magari sì, poi i fatti dicono un'altra cosa. E per cui stanno bene, e adesso però un conto è stato, poi bisogna vedere, insomma, comunque sai, il Madrid deve andare a Letiad a vincere 2-0 o 3-1, insomma è complicato, sì, oppure vincere 2-1, andare ai rigori, insomma è una situazione, e il Barcellona, ti dico, è un'incognita, sono pochissimi, il problema del Barcellona è una rosa cortissima, per cui sai, le alternative sono molto poche, e per quello dico che il Napoli ha una grande occasione, il City, se domani si fa eliminare dal Madrid, cioè, si apre uno scenario lì clamoroso, perché insomma ha detto Guardiola, se non vinciamo la Champions è un mio fallimento, se dovesse uscire in queste condizioni certamente lo sarebbe. No, con tutto quello che può significare. Allora, fatemi salutare Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo, alla prossima. Ciao Phil. Allora, Pier, stai lì, 800 24 00 24. Io vi invito a chiamare per prenotarvi, intervenire alle 15. Faremo un blocco e daremo spazio alle vostre telefonate. Adesso restiamo sulla Roma, dopo la borsa. A proposito di borsa, avremo le notizie, credo, anche sul titolo della S Roma, che questa notte intorno all'1.30 è passata di mano. Firma dei contratti preliminari da Pallotta a Friedkin e parleremo di questo, capiremo che cosa succede adesso. Ma se l'Inter vince l'Europa League, arriva seconda in campionato, a chi è andata meglio? Alla Juve o all'Inter quest'anno? Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Questa Roma è una squadra senza presidente, o meglio, è una squadra con un presidente tragico che ha deciso di vendere, che non ha mai creduto in questa squadra, in questa società, è venuto per fare il suo mestiere, quello di speculare, aveva intuito il business dello stadio, non si è innamorato né di Roma, e questo già, come dire, apre squarci sulla sua psicologia, e non si è innamorato neanche della Roma. L'ha considerata alla stregua di una pizzeria, che dobbiamo raccoglierci in preghiera, parlo diciamo per i tifosi della Roma, e pregare che questo signore non si faccia decida a vendere al più presto la Roma. Years pass by. Tutta la squadra si è svegliata con la notizia del giorno. Di fatto la firma ufficiale, comunicata attraverso appunto la nota ufficiale del club, la firma sul preliminare per il passaggio dal gruppo di Pallotta al gruppo Friedkin. Take me to Texas by your side. E i giocatori già sono stati informati della situazione, sanno che passeranno a un gruppo solido che può rendere la Roma più forte. Qui colpi di scena non ci saranno, ormai è fatta rispetto a quanto era accaduto in precedenza a marzo. Carissimo Pier, è stato un capolavoro di Claudia Schiattone, che è andata a recuperare la fatwa di Fabrizio Roncone su James Pallotta negli archivi di tutti i convocati. La cosa più bella è il passaggio sulla psicologia. Sì, sì. Non si è innamorato di Roma, è già questo. Dice lunga. È un grosso problema. Oh, vi dico già che io combatto, perché poi secondo me si è anche un po' esagerato su Pallotta, e adesso che ne parliamo alla memoria, no, dal punto di vista della proprietà, possiamo anche dircelo. Fabrizio Roncone, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Allora, ieri qui Ivan Zazzaroni ha detto: il giorno che vende, che sono sicuro che vende, farò la prima pagina Independence Day. Poi Pallotta gli ha fatto un ultimo dispetto, ha venduto alle 2 di notte, e quindi diciamo non c'era tempo per ribattere la prima del Corriere dello Sport di oggi, ma magari domani lo fa domani. La tua impressione, Fabrizio? Beh, intanto devo dire che così nel giro dei tantam via WhatsApp, messaggi, telefonate, grande euforia. Grande euforia perché purtroppo eravamo dentro una cappa brutta, triste, che questa città, dico lascia stare la tifoseria, una città come Roma non meritava. E quindi oggi è una bellissima giornata, una giornata di speranza per i tifosi, per la città, anche per la città, perché comunque la Roma è in grande parte anche Roma. Cioè tu dici oggi c'è il sole a Roma. Oggi c'è il sole, una bellissima giornata, e naturalmente come sempre succede in questi casi è lecito anche fare grandi giochi di immaginazione, no? Immaginarsi il meglio, oggi dovete permettercelo. Sì, no, io te lo permetto, poi però dopo torniamo anche alla dura realtà, perché Friedkin ha certamente grandi propositi e anche delle ottime possibilità economiche, e certamente viene a Roma per fare una grande squadra, parte però da un'eredità molto pesante, ma di questo adesso ne parliamo. Dicevo, Pier, secondo me Pallotta non è solo l'eroe negativo che è stato dipinto in questi mesi, anche dal punto di vista tecnico poi cade dal punto di vista del progetto per la questione stadio e perché manca per 2 anni di fila la Champions League, ma non mi sembra che abbia fatto vivere degli anni sotto il par ai tifosi della Roma, anche se poi se ne va odiatissimo. Assolutamente, no, ma infatti il mio radio tweet sarebbe stato questo, se la connessione me l'avesse permesso. Cioè, il fatto che io auguro ovviamente a Friedkin e consiglio solamente una richiesta a Friedkin, di avere, al di là dei fatti, che sono poi fondamentali, di avere un approccio di comunicazione molto diverso. Fatto, abbiamo discusso 1000 volte, il tifoso di calcio non è un consumatore, è un popolo, è qualcosa che per certi versi è molto più vicino alla religione che ha un contratto con un'azienda che ti vende yogurt o che ti fa stipulare un'assicurazione. Essere tifoso di una squadra significa appartenere a qualcosa, a un'idea, e questo secondo me, in questo secondo me Pallotta ha sbagliato tante volte. E non parlo, tu ieri parlavi degli ultra, non è, o l'altro ieri, non è un discorso di ultra, è un discorso complessivo di rapporto con i tifosi. Insomma, Fabrizio è assolutamente un moderato in mille cose della vita, ma dice cose su Pallotta che sono fortissime. I risultati, hai ragione, i risultati secondo me non sono stati catastrofici. È mancata la vittoria, che chiaramente è importante, anche perché negli ultimi tempi si è unita a una serie di risultati della Lazio significativi, e questo secondo me è un tema all'interno della meravigliosa rivalità che esiste, sì, a Roma, ha creato una sorta di aspettativa che però poi è diventata se noi guardiamo i risultati complessivi, i risultati complessivi della Roma sono stati buoni in questi anni. Hai ragione, se tu fai un paragone tecnico statistico con quello che era successo nei 15 anni precedenti, sì, sicuramente c'è uno scudetto, probabilmente lo perde Pallotta, ma non è detto neanche del tutto. Se lo valuti con tutto il resto della storia della Roma, sono stati anni di altissima borghesia, però non è bastato. E perché non è bastato? Per quello che dice Fabrizio, perché comunque poi perché è stato fatto grande trading, quindi tutte le volte si è ricominciato da capo, e questa dovrebbe essere una delle novità di Fabrizio, vedremo se sarà così, e perché secondo me si è tenuto in poca considerazione il tifoso, comunque sono stati sbagliati alcuni passaggi. Fabrizio? Posso aggiungere questo? Aspetta, perché ti si sente male, adesso proviamo a stabilizzare la linea. Poi chiaramente Pallotta va via anche per un contesto che dopo anni di spese, di progetti, di tentativi, di strappi, di ritorni al punto zero, non gli ha concesso di fare il progetto stadio. Certo. E questo è un problema che si troverà ad affrontare ovviamente anche Friedkin con tutto l'entusiasmo che porta nel suo approccio a Roma, e questo è un problema con cui poi si dovrà misurare il contesto romano, perché altrimenti c'è il rischio di far disamorare uno dopo gli altri tutti i potenziali investitori, e vediamo anche cosa sta succedendo a Firenze, no, Pier, in questi mesi con Commisso che è passato dal fast al insomma a una sana Firenze, incazzatura. Per esempio, dal punto di vista della comunicazione, è un esempio di rapporto virtuoso fra presidenza e tifosi. Sì, è diventato poi uno di loro, sì. Alla lunga poi ovviamente servono i risultati, però un certo modo di considerare il tifoso secondo me è molto importante, molto positivo, e non è finzione o retorica, è proprio cogliere nel senso profondo quella che è l'essenza del tifo. E ripeto, merita di grandissimo rispetto, perché poi il tifoso non è razionale. Io penso che se guardiamo, cioè, questi giorni si discute molto di Cairo a Torino, se noi guardiamo i 15 anni della storia di Cairo e li paragoniamo con i 15 anni precedenti, c'è partita, ha riportato il Torino stabilmente in Serie A, l'ha riportato in Europa, ha avuto anche delle stagioni importanti, l'ultima sicuramente no, è stata un'agonia, però credo per sua stessa missione, no? Però se facciamo un paragone con quello che c'è stato prima, però c'è tanta, sì, merita molto più della contestazione che sta vivendo. Vive sicuramente di presente, e secondo me la chiave della comunicazione è estremamente importante. Abbiamo recuperato Fabrizio Roncone, vai Fabrizio, ti abbiamo interrotto, sì, no, perché si sentiva male. Stavo dicendo che in realtà io un piccolissimo, ma dico io nel senso che credo di interpretare anche il disagio del tifoso romanista di questi anni, e io un piccolo consiglio l'ho dato stamattina con un Twitter, e cioè invito il nuovo proprietario ad ascoltare, a farsi tradurre le parole dell'inno della Roma e di Grazie Roma, perché attraverso la traduzione di queste due canzoni simbolo della tifoseria, io credo che lui riuscirebbe a capire prima del tempo, prima della classica entrata con i piedi dentro un ambiente, cos'è Roma e che cos'è Roma, la Roma per i romani. Ed è quello che è mancato, e mi aggancio a quello che diceva Pierre, a Pallotta. Pallotta non ha capito dove era arrivato, dove era venuto, che cos'era questa città. Io ebbi la sensazione che lui potesse finalmente cogliere l'animo dei tifosi della Roma. La sera di Roma-Barcellona, che mi sembra di ricordare fosse la sera del bagno nella fontana di Piazza del Popolo, sì. Io ho sperato quella sera, dico, ma forse ha capito che cosa significa essere il presidente della Roma, perché è inutile che facciamo i modesti. Roma è una piazza speciale, una città speciale, una tifoseria speciale. Tutte le tifoserie sono magnifiche, tutte. Però ce ne sono alcune che sono un po' diverse, se no non ci sarebbe la leggenda del Liverpool, non ci sarebbe la leggenda del Santiago Bernabéu quando che è Real, non ci sarebbero alcune leggende. Ecco, Roma ha qualcosa che Pallotta non ha capito. E in effetti, io non fatico ovviamente ad ammettere che questa squadra fu portata anche alle soglie di una finale al Champions. Ma è sempre costantemente mancato il rapporto con la città, con i tifosi e, aggiungo, anche con con i mezzi di informazione. C'era sempre quest'aria molto sfocchiosa, quasi molto sfocchiosa, che dicevano, la frase era non capite il progetto. Ecco, questo non solo non l'hanno capito i giornalisti, che non capiscono mai niente di solito, ma non l'hanno capito neanche i tifosi. Non l'hanno capito neanche i tifosi, sono la Roma. Così come i tifosi della Juve sono la Juve, così come i tifosi del Milan sono il Milan. Ecco, se tu non entri in sintonia con i tifosi, puoi comprarti tutte le società del mondo, ma sei destinato a lasciare la città come lascia oggi simbolicamente Roma Pallotta. Sì, sicuramente non rimpianto. Allora, grazie a Fabrizio Roncone. Ciao Fabrizio, grazie. Ciao Fabrizio. Beh, intanto c'è da dire che dovrebbe trasferirsi a Roma il figlio di Dan Friedkin, Ryan, a fare il presidente, un po' come Steven Zhang è stato mandato dal padre a Milano per tenere le fila del Business Inter, e questo potrebbe essere certamente un segnale di volontà di entrare in empatia con tutta la piazza. Io però ripeto, tra quelli che non hanno capito il progetto Roma, però colpevolmente in questo senso, dal mio punto di vista, ci sono anche quelli che per anni hanno messo su un muro di gomma e hanno impedito all'imprenditore Pallotta di rendere più forte quel progetto nella cosa poi più importante di tutte, che era la partita e la vicenda dello stadio. E prima o poi il nodo uscirà anche per Friedkin, quindi noi mettiamo le mani avanti e auguriamo a Friedkin miglior fortuna rispetto a quella che ha avuto Pallotta a quella che sta avendo commisso. Scusa, non so se abbiamo 20 secondi. Vai. La partita dello stadio, nei momenti di maggiore conflittualità da parte dei tifosi nei confronti di Pallotta, in realtà è un interesse collettivo, nel senso che è interesse di ogni singolo tifoso, di ogni singola squadra. Ma anche lì è stato fatto passare che era venuto qui per speculare sullo stadio, anche dagli stessi tifosi. Sì, ma infatti le due cose non sono in opposizione. C'è stata proprio costruire uno stadio nuovo nel medio periodo, non nel breve, perché nel breve ti può anche togliere delle risorse, vedi l'Arsenal, ma nel medio-lungo periodo è sicuramente una forma di capitalizzazione di un club fortissima, e quindi può portare sicuramente a dei risultati, questo non c'è dubbio, e quindi quella battaglia era una battaglia fatta sicuramente nel nome dell'interesse del club, non soltanto nel nome dell'interesse personale, ma ripeto, secondo me le cose da imputare sono altre, e sono soprattutto di carattere comunicativo e anche di trading, perché quando una società arriva comunque dove è arrivata e poi vende giocatori di quel livello lì e ricomincia a fare trading ogni anno, qualche responsabilità ce l'ha. Poi lo so benissimo che la situazione economica non è una situazione facile, so benissimo che comunque Pallotta i soldi ce li ha messi, adesso chiude non come avrebbe voluto dal punto di vista economico, ma chiude credo senza danni, con poi sentiremo Bellinazzo, con una piccola plusvalenza da quello che mi risulta, ma insomma non è sicuramente stato poi per lui il business che sognava di fare. E non è neanche stato il business che avrebbe potuto fare prima della pandemia e di tutto quello appunto, che è successo. Appunto. Allora, ci fermiamo, il traffico, poi vedo già collegato Gigi De Cagno con cui facciamo due chiacchiere sul valzer degli allenatori. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Le sensazioni sono nettamente positive, anche sono quelle che mi hanno portato a scegliere questo club, dalla grande convinzione del presidente, dalla voglia di far bene, dalla voglia mia di riprendermi un pochino quello che ho lasciato per strada e magari ridare quel grande entusiasmo di cui parlava il nostro presidente. Giampaolo lo conosco da molto tempo e pensavo già a lui molti anni fa, poi prendiamo un altro allenatore, poi ci ripensare un'altra volta, e non era mai disponibile in quel periodo in quanto era aveva squadra, no? per cui insomma oggi siamo molto soddisfatti, perché è un allenatore di qualità, che insegna calcio, che fa giocare bene le squadre, quindi insomma direi molto bene. Penultima chiamata alle armi, 800 24 00 24, dalle 15 apriamo il microfono aperto, quindi spazio alle vostre telefonate, potete chiamare e prenotarvi già adesso. Saluto Gigi De Cagno, ciao mister. Ben trovati, buongiorno. Allora Piero, abbiamo provato a mettere insieme un paio di voci, di Francesco, Cairo, che di fatto ufficializza l'arrivo di Giampaolo al Torino, poi sappiamo che in queste ore è in via di definizione la prosecuzione del rapporto tra Gotti e l'Udinese, c'era stata qualche incomprensione che però è stata superata nella serata di ieri, dunque Gotti va avanti, non resta molto altro. Il paradosso, lo dico a tutti e due partendo da De Cagno, è che restano aperte come storie di panchine bollenti quelle delle prime due del campionato, Juventus e Inter, mentre nel contesto si muove poco. Gigi? Riflettevo. Ci sono delle situazioni diverse. Per quanto riguarda la Juve, c'è una storia di risultati, perché da Sarri si voleva, a mio avviso erroneamente, da subito il bel gioco e non è potuto arrivare, e nel contempo due obiettivi su tre sono su quattro, meglio due obiettivi su quattro sono saltati, e questo ad una società abituata a vincere pesa. Quella dell'Inter di Antonio Conte è una storia basata su altri aspetti, non tanto su quella dei risultati, quanto nella fase della società, ma su una questione di rapporti, di comunicazione fra l'operato, fra la volontà del tecnico e l'operato della società. Cose che potranno definirsi nei prossimi giorni e che probabilmente per il momento lascio un punto interrogativo. Sì, sul futuro. Ma secondo te, Sarri, si può giudicare in una notte, quella di domani sera con Lione? No, guarda, io penso che ci sia un errore di base. Purtroppo credo che Sarri sia prigioniero di tutto ciò che di bello si è detto su quello che ha fatto a Napoli, del sarrismo, queste cose qui. Non è stato, non è stato valutato per tutte quelle altre condizioni che hanno reso possibile quel tipo di gioco e quei risultati, quella qualità di gioco, perché poi i risultati, insomma, sul piano pratico non è arrivato nulla. Ma in effetti, quando si deve giocare bene a calcio, intanto si gioca bene se c'è una continuità in un tipo di gioco, se nel tempo si è praticato un certo tipo di gioco. Sarri ha fatto molto bene a Napoli, perché Benitez nei due anni precedenti aveva in due anni comunque aveva seminato e avviato questo tipo di gioco. Io credo che un problema invece alla Juventus, tu dici, ha ereditato una Juventus risultatista che gioca con una filosofia diversa. E quindi se non hai la possibilità dell'allenamento quotidiano per poter far assimilare ai giocatori i tuoi concetti, è difficile che questo avvenga. E quindi, insomma, credo che non valutando queste condizioni, Sarri sia stato prigioniero della sua fama, quell'etichetta che si portava dietro, tra l'altro l'etichetta che lui aveva cercato di scollarsi di dosso già, se ti ricordi, Pier, nella conferenza stampa di presentazione, dicendo il sarrismo l'avete inventato voi. Però poi diciamo che non è dal punto di vista dello stile, per capirci, della comunicazione, non è, l'abbiamo detto tante volte, esattamente in linea con la storia della Juve, no? con il tipo di profilo. Quindi poi alla fine lui è anche il suo bello, no? rimane fedele a se stesso, alla sua maniera di allenare e di comunicare. No, io penso che con una provocazione ti dico che sì, anche se non si dovrebbe fare, si deve valutare Sarri, e chiaramente sto giocando. Sì, perché siamo arrivati a un perché punto non è un dettaglio. Ma innanzitutto è stato preso per quello, perché non è che Allegri non vincesse i campionati, vinceva i campionati e le Coppa Italia. Quindi è stato preso Sarri per crescere in Europa. Ora è un anno strano, particolare, eccezionale, con mille attenuanti e mille variabili diverse, e sappiamo bene quello che è successo. Però che Sarri debba essere giudicato in queste partite non c'è alcun dubbio. È ancora però padrone del proprio destino. È chiaro che se avesse vinto il campionato con un passo diverso, con una sicurezza diversa, le cose sarebbero state sicuramente differenti, questo non c'è dubbio. E invece sulle altre scelte io mi aspetto pochi cambi in panchina quest'anno, e quei due che abbiamo sentito prima assieme alla conferma di Gotti mi fanno molto piacere, perché noi di Francesco e Giampaolo sono due ottimi allenatori che tutti e due hanno vissuto un autunno 2019 complicatissimo, molto diverso ma complicatissimo. E quindi mi sembrano due scelte molto razionali quelle di Cagliari e Torino. Se posso tirare un filo che lega tutte queste storie insieme, sì, Gigi, scusami, solo per ricollegarmi anche al discorso che facevo prima a proposito di Sarri con la Juve, credo che lo stesso problema potrebbe averlo inizialmente Giampaolo al Torino, no? Perché il Torino viene da anni di filosofia diversa. E quindi anche se poi invece Giampaolo, come dicevo, avrà il vantaggio della possibilità di allenarsi per tutta la settimana e quindi un po' facilitato, ma credo che all'inizio potrebbe avere difficoltà il Torino ad essere come Giampaolo. Ma poi paradossalmente ci può essere anche più facile cambiare, no? Nel senso che la Juve, per cambiare la Juve e portarla su dei concetti, diciamo, più da 4-3-3 sarrista, dovevi proprio andare a cambiare dei giocatori che non sono sostituibili. Anche su Ronaldo addirittura a un certo punto si è aperto un dibattito. È chiaro che un dibattito su Ronaldo già fa ridere soltanto a sentire la parola dibattito assieme a Cristiano Ronaldo nella stessa frase già viene da ridere, e poi non è un giocatore facilmente spostabile. In una squadra invece di medio livello come è il Torino, io credo che ci possono essere tutti i presupposti per plasmare una squadra legata e desiderata di Giampaolo senza particolari problemi. Se posso prendere e fare sintesi di quello che ha detto prima Gigi De Cagno e poi è stato sviluppato dopo, però facendo una provocazione dico che nessuno di questi, di Francesco, lo stesso Giampaolo e a maggior ragione Sarri con la Juventus che avrà 2000 impegni e tanti nazionali, in realtà nei prossimi mesi potranno allenare. Questo è il vero problema di queste di tutti e soprattutto di queste situazioni nuove. Per quanto riguarda anche il discorso di Sarri, mi è venuto in mente una cosa. Io credo che anche le sue dichiarazioni iniziali in cui Ronaldo può fare quello che vuole, gli altri no, aveva fatto credere alla possibilità che si potesse realizzare un gioco d'assieme più lineare, più continuo, più fluido, no? La dichiarazione successiva, che mi affido ai campioni, credo che abbia anche, insomma, poi dimostrato una intelligenza ed elasticità da parte sua, ma poi un'ammissione praticamente di impotenza nel poter proporre la sua filosofia, che invece era stata la forza di Sarri anche quando, di Sacchi, scusate, quando al Milan, pur in difficoltà, ma si impose grazie anche all'aiuto della società, sì, con i tanti campioni che aveva, e creò il suo mito con le spalle coperte. Allora, sì, ci dobbiamo fermare. Grazie a Gigi De Canio. Grazie a voi. Ciao ministro, grazie. Allora Pier, ci sentiamo domani alle 14. È chiaro, saremo in piena vigilia, ore di vigilia di Juventus Leone proiettati su Torino. Allora, ciao, a domani, grazie. Ciao. Ci fermiamo un minuto, veramente soltanto un minuto, 800 24 0024, poi filo diretto, spazio alle vostre telefonate. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 0024 800 24 0024 Tutti convocati. Tutti convocati. Io penso sicuramente che l'operazione Sanchez sia stata un'ottima operazione fatta dalla società. Poi magari la società sarà più brava a dire i termini. Penso che alle condizioni che si è riusciti a prendere Alexis, sicuramente un plauso va al club per chi ha chiuso un'ottima operazione, ecco, molto conveniente anche. Confermo che con Raggi ha un ottimo rapporto, ma questo poi dipende da tante altre dinamiche. È ovvio che lo ritengo un giocatore forte per averlo avuto, per le caratteristiche che ha, perché è un giocatore unico sotto tanti punti di vista. Frammenti di calciomercato che inizia ufficialmente, l'abbiamo raccontato ieri da Rimini, il primo settembre, ma in realtà è già ampiamente attivo sotto e sopra la cenere, la brace. Allora, Massimo Caputi, ciao. Ciao, buon pomeriggio. Intanto, se mi dai il tuo pensiero su questa giornata per certi versi storica per la Roma, quella del passaggio da Pallotta a Friedkin. Beh, diciamo che è un passaggio che era nell'aria, sono mesi e mesi che si parla di una cessione da parte della Roma. Sappiamo tutti quanto il Covid e il post-Covid abbia condizionato questa trattativa, si è arrivati alla conclusione. E credo che sia un bene per tutti, lo è per Pallotta, che indubbiamente voleva vendere, lo è per Friedkin che ha fortemente voluto questa operazione, e credo che lo sia anche per la società e per la piazza, perché si volta pagina e coincide, diciamo, anche la giornata con il passaggio, con una gara importante, ma direi soprattutto si volta pagina perché ormai gli 8 anni di presidenza Pallotta avevano fatto il loro tempo. I tifosi della Roma devono aspettarsi, ad esempio, che si chiuda ogni discorso di mercato su Zaniolo e Pellegrini? Lo dico perché poi Friedkin arriva con grande entusiasmo, grandi possibilità, grande passivo di bilancio, e quello resta, in qualche modo poi va rimesso in equilibrio. Beh, guarda, io credo che quando parlavo di voltar pagina, credo che quello che si augurano i tifosi della Roma e che non ci sia più quell'ansia che ha caratterizzato tutte le stagioni nella cessione dei suoi migliori calciatori. Quindi rispondo alla tua domanda facendo questa riflessione, perché credo che il nuovo arrivato, pur tenendo conto di un bilancio negativo e di soldi che vanno recuperati, credo che non potrà partire con una nuova era e con il consenso dei tifosi se la sua prima operazione fosse quella di cedere i migliori calciatori. Credo anzi invece che i tifosi magari sarebbero disposti anche a non avere colpi di mercato particolari per il prossimo anno, non se li aspettano, non li pretendono, ma si aspettano, questo sì, che uno dei primi passaggi importanti di filosofia e di mentalità che cambia è quella di partire nuovamente dai migliori giocatori che la Roma ha a disposizione. Allora, Fabrizio da Pescara. Fabrizio. Saluti a tutti. Allora, da tifoso della Roma mi stavo chiedendo, ma posto che 5 squadre al massimo possono andare in Champions League per quanto riguarda l'Italia, sì, se la Roma, se dovesse vincere l'Europa League e l'Inter, l'Inter andrebbe in Champions come vincitrice dell'Europa League, per cui si potrebbe liberare il quinto posto. No, non in quel caso. No, l'unica possibilità per liberare il quinto posto è che lo vinca una squadra al di fuori delle prime quattro, quindi in questo caso che lo vinca la Roma. Allora, in quel caso la Roma salirebbe, lasciando libero un posto in più ad un'altra nazione d'Europa League, ma salirebbe in Champions League. Se invece sia il Napoli che la Roma vincessero i rispettivi tornei, quindi il Napoli la Champions League e la Roma l'Europa League, resterebbe fregata, fra virgolette, la Lazio, che dovrebbe retrocedere in Europa League, perché il massimo contingente di squadre per una nazione in Champions League è 5, non può essere 6. Dico bene, no, Massimo? Giusto, giustissimo. Così l'abbiamo sintetizzata. Massimo da Milano, Massimo. Massimo? Pronto? Eccoci, vai. Ah, eccoci. Sì, buongiorno a tutti, saluto anche a Pierre, che con quale condivido lo sport più bello del mondo dopo il calcio, cioè il golf. No, il giornalista prima, io le critiche a Pallotta, non le condivido assolutamente. Io faccio impresa e devo dire che comunque per chi si occupa di impresa, fare una vendita in questo periodo, post pandemia o comunque con la pandemia in mezzo. Io sono passato, diciamo, mia squadra all'Inter, quindi ho seguito le vicende, come avete seguito anche voi, di Toir, di Moratti, cioè l'Inter è stata, mi pare, cifra mano 300 milioni di euro. Quindi, voglio dire, cioè, riuscire a fare una vendita del genere ad un magnate americano che mette soldi, e comunque io, dopo Totti e Sensi, io farei comunque una statua anche a Pallotta, perché è riuscito a fare quello che in questi tempi veramente è molto molto molto difficile fare. Quindi un monumento a Pallotta, un augurio a tutti i tifosi della Roma, perché possano fare il meglio. Sì, io ho l'impressione, Massimo, che la statua a Pallotta, perché ha venduto, gliela fanno volentieri anche i tifosi della Roma. Poi io ho detto prima, secondo me è stato dipinto troppo come il cattivo in parte, nella commedia, in questi ultimi mesi. Non c'è dubbio, è chiaro che Pallotta non può essere l'unico cattivo di questa vicenda e del fatto che la Roma non ha vinto. Diciamo, quello che si può rimproverare a Pallotta è che nel corso di questi anni una politica di trading affidata non sempre magari nelle mani giuste ha portato a questa situazione, a una situazione di grande difficoltà economica. Quindi diciamo che a proposito della statua, qui non si tratta di fare statue perché ha venduto infatti perché quasi costretto a dover vendere, se non voleva rimettere altri soldi ancora, su una società che in questi anni ha speso tanto, ha venduto tanto, ma che ha un bilancio assolutamente negativo. E la vende a almeno 200 milioni meno rispetto a quelli che si pensava. Se ricordate, le cifre prima del Covid erano di 790 e non di 591, come poi è stata la cessione attuale. Non è l'unico responsabile, però è altrettanto vero che, essendo il proprietario, essendo il padrone, è comunque quello a cui poi la gente si è rivolta in maniera negativa. Credo anche che, in fin dei conti, lui non abbia mai, o comunque abbia deteriorato nel corso di questi anni, il feeling con i tifosi, forse non per colpa sua. Comunque sta di fatto che non ha capito un po' l'umore, come ragionano questa piazza e i tifosi della Roma, e quindi io credo che alla fine sinceramente sia una liberazione per tutti, lo è per Pallotta da un punto di vista economico e lo è anche per la tifoseria, che ormai mal sopportava questo presidente, soprattutto perché alla vigilia di una nuova stagione, di un nuovo calciomercato, c'era profonda preoccupazione per quello che era il futuro. Intanto, restando in zona, si avvicina, batte l'ultima ora Sky, alla Lazio lo spagnolo David Silva. Ci sono segnali positivi dalla trattativa, il giocatore si svincola dal Manchester City. Ora, una bella notizia. Ecco, sto cercando di capire però che cosa è in testa Lotito per la Lazio della prossima stagione, perché il quarto posto finale secondo me non fotografa esattamente il contenuto tecnico della stagione della Lazio. però da un certo punto di vista certifica anche quello che è il grande limite, e l'anno prossimo sarà una stagione compressa nelle date, quindi non si può pensare di essere competitivi per lo scudetto giocando in 14. Assolutamente, ma io credo che questa stagione in qualche maniera debba essere da esempio e da insegnamento per la futura, che come dicevi giustamente te sarà comunque pressante con tanti impegni, e la Lazio avrà la Champions League. Se 7, 8, 9 mesi fa la Lazio fece una scelta, quella di lasciare l'Europa League per concentrarsi sul campionato, non potrà fare altrettanto chiaramente con la Champions. Quindi io sono convinto che lo Tito allestirà una squadra sempre nei modi e nelle logiche di un imprenditore o comunque di un presidente che non ha mai fatto il passo più lungo della gamba. Quindi non mi aspetto colpi a sensazione, mi aspetto però colpi mirati. E guarda, io credo che l'acquisto di David Silva in quest'ottica sia un bel acquisto, perché è un giocatore che può ancora dare molto, soprattutto se non impiegato ogni partita, perché ha comunque un'esperienza, una mentalità vincente che comunque serve ad una squadra che è stata indubbiamente protagonista, ma che non ha, diciamo, a parte le Coppa Italia, ma in ambito di scudetto e a livello internazionale, quella personalità che invece giocatori di quel tipo possono portare. Andrea da Verbagna. Andrea. Buongiorno a tutti. Una Ciao. Considerazione velocissima su Conte. Io ho il sentore che se vincesse la Champions League, l'Europa League, se ne andrebbe, come ha fatto con il Chelsea, eccetera. Perdendo invece, non vincendo niente, secondo me l'anno prossimo rimarrà ancora all'Inter. Perché? Grazie. Perché hai questo pensiero? Perché è sempre andato via un po' alla Mourinho, è andato via sempre vincendo qualcosa, però. Sì, secondo me, anche se in realtà dalla Juventus va via, per carità, dopo aver vinto lo scudetto, ma era il terzo di fila e se vogliamo, insomma, dopo aver fallito in Europa, fallito magari è una sintesi brutale, ma insomma per capirci, e al Chelsea stesso lui vince il primo anno e la rottura avviene più tardi. Non so, Massimo, che impressione hai tu, conoscendo anche bene Conte? No, io penso che io non ho questa sensazione che se vince l'Europa League lascia l'Inter, anzi probabilmente se vince l'Europa League attendiamoci qualche altro sfogo per poter dire da parte di Conte che potrà dire di aver ragione lui e di comunque di pretendere di più. Io credo che il vero obiettivo di Conte sia quello di vincere sempre, e l'Inter oggi, a mio avviso, dopo la Juventus, è l'alternativa più credibile da un punto di vista economico in particolar modo, e quindi io penso che Conte rimarrà lì, per almeno colpi di scena che io in questo momento però non conosco, non immagino. Sì, anche se ieri è andato in scena il grande freddo tra Conte e Marotta. Sì, beh, indubbiamente. Conosciamo un po' Marotta dopo qualche anno ed era veramente una maschera, cioè raramente visto così teso, chiuso, così attento a non offrire nessun appiglio. L'attacco, diciamo, di Conte poi alla fine di qualche giorno fa, insomma, aveva in Marotta un obiettivo, però io penso che Marotta sia però uno dei migliori dirigenti che noi abbiamo in Italia, e tutti sbagliamo. Io penso che anche Conte quest'anno abbia sbagliato, non è che non penso si ritenga esente da errori, non può imputare alla campagna acquisti piuttosto che non so cos'altro, se l'Inter di fatto arriva seconda ma è in lotta per lo scudetto, concretamente non c'è mai stato, c'è molto più stata la Lazio che poi arriva quarta che non l'Inter, quindi anche lui secondo me poteva fare di meglio, però insomma arrivare secondi e perché no, magari tentare di vincere l'Europa League può essere sicuramente un buon trampolino di lancio, e magari con i successi alcune situazioni si possono appianare, soprattutto se poi alla fine ad entrambi conviene, non dico andare d'amore d'accordo, ma quantomeno fare dei compromessi. Sì, perché poi il sospetto di tutti, forse anche dello stesso Conte, che ho l'impressione consideri un'illusione ottica quel punto di distacco a fine campionato dalla Juventus, è che molto sia dipeso dalla frenata della Juventus, dalla vulnerabilità, dalle difficoltà avute in questa stagione, che riportano poi al verdetto che ci sarà domani sera ore 21 contro il Lione. Ne parlavamo prima con Gigi De Cagno, con Pierluigi Pardo, e cioè su quanto sia giusto, corretto poi giudicare il lavoro di Sarri sui 90 minuti o 120 di domani. No, diciamo, da una parte è ingiusto, perché è evidente che quando tu arrivi alla Juventus sai che il minimo è vincere un campionato, e lui l'ha fatto, perché comunque la Juve ne aveva 28 precedentemente, però è chiaro che c'è la Champions League. Quello che diciamo pesa sulla, su Sarri è il fatto che almeno con lui in panchina della Juventus si aspettava un altro calcio, e quando parlo di un altro calcio non mi riferisco al calcio del Napoli, a mio avviso irripetibile, ma comunque una squadra più organizzata, una squadra più convincente, una squadra meno fragile. Alla fine questa squadra, pur avendo cambiato in qualche maniera il suo modo di stare in campo, è una squadra fragile che si è dovuta attaccare più alle prodezze individuali che non al gioco di squadra, che è un po' quello dovrebbe essere il marchio di fabbrica di Sarri. Allora, siccome Sarri è un personaggio molto distante da un punto di vista di look e di modo di porsi rispetto alla Juventus, l'unico modo per convincere tutto e tutti è appunto sul campo, ed è il campo che invece ha dato le maggiori incertezze. Però vorrei dire, al di là di come andrà a finire con il Lione, che Sarri, a Sarri probabilmente va data una squadra diversa, perché comunque, diciamoci la verità, la Juventus di quest'anno, fortissima, è una Juventus che nasce da tanti compromessi di un calciomercato di un'estate fa. Non era certo, secondo me, la squadra ideale da mettere in mano a Sarri. Da capire se ce ne sia il tempo e la volontà. E questo lo scopriremo, anche perché comunque il tempo non di sicuro, ma non per colpa della Juventus o di chiunque altro, avrà poco tempo in questa estate per costruire il prossimo progetto. La volontà non lo so. No, ma io credo che la Juventus insomma ha come sempre l'obiettivo di vincere e di migliorarsi. Anche i conti della Juventus comunque sono conti che vanno analizzati e dei quali bisogna tener conto. Avrà sicuramente dei giocatori da dover cedere, e diciamo nell'ambito di queste cessioni, o attraverso gli scambi o attraverso la cessione in soldi, io credo che la Juventus cambierà la prossima stagione in alcuni suoi uomini. E non dobbiamo neanche dimenticarci che questa Juventus comunque ha subito e sta subendo una trasformazione di uomini che non è di poco conto, perché quando tu hai una difesa straordinaria, forte come Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini, comunque la devi rinnovare, e quella che un tempo era la tua certezza, la tua colonna granitica su cui poggiare le fondamenta di una squadra, questa non c'è più. Quindi anche in questo, secondo me, il lavoro di Sarri in qualche maniera va in qualche maniera rivalutato. Io non sono un difensore di Sarri, perché io mi aspettavo di più, sono un po' deluso da lui, però credo che ci siano molte attenuanti, non ultima, come a suo vantaggio, il fatto di aver comunque dato un ruolo e una presenza fissa a un giocatore come Dybala, che invece fino agli anni precedenti qualche problema di collocazione in mezzo al campo ce l'aveva. Grazie Massimo. Grazie a voi, ciao. Ciao, grazie Massimo Caputi dal Messaggero. Allora, abbiamo il traffico, poi quando torniamo ci tuffiamo in piscina, continuiamo la nostra Road to Tokyo 2021, parliamo di nuoto, ieri c'è stato il compleanno della divina Federica Pellegrini, e poi parliamo anche con uno dei talenti nascenti del nuoto italiano. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Radio 24 vi accompagna per tutta l'estate con alcune delle sue trasmissioni consolidate e qualche novità. Come sempre, tanta informazione e approfondimenti sull'attualità per essere sempre aggiornati su quello che accade in Italia e nel mondo. Ma spazio anche all'intrattenimento, alla narrazione di qualità e all'ironia. Per conoscere la programmazione speciale di agosto potete consultare il sito radio24.it, dove potete riascoltare i nostri programmi in podcast e scoprire i podcast originali. Radio 24 è sempre con voi, anche in estate. Tutti convocati. Siamo con Stefano Orcobelli, Gazzetta dello Sport. Ciao Stefano. Ciao. Allora, ieri è stato il compleanno della divina Federica Pellegrini, 32 anni, ha scritto su Instagram, direi che l'ho presa bene. Tra un anno oggi, correggimi se sbaglio Stefano, la sua rincorsa verso Tokyo e verso questo che dovrebbe essere l'ultimo atto della sua carriera straordinaria sarà compiuta. ha detto che poi si prenderà un anno sabbatico per viaggiare. Come la vedi? Ha detto che ormai la benzina è in esaurimento, ma che resisterà da un anno all'altro, 32 o 33 cambia poco, e quindi secondo me diciamo che potremmo ritrovarla allo stesso standard, perché se lei ormai è abituata a fare una preparazione molto meticolosa, ma anche ripetuta negli anni, e quindi sa già tecnicamente, è un po' una macchina Federico, quindi poi ha una motivazione straordinaria, ha una felicità che naturalmente è derivata dai successi ancora degli ultimi anni tutti d'oro, e la popolarità, ecco, finalmente si sente amata, e quindi questo poi lo sprigiona in acqua e viene fuori veramente una campionessa che per longevità credo che abbia pochi eguali. Tra l'altro lei potrebbe diventare davvero all'Olimpiade la prima donna unica al mondo nella storia delle Olimpiadi, in oltre 100 anni di Olimpiade, in cui arriva alla finale della stessa gara per 5 volte consecutive. C'è solo un precedente a livello maschile, che si chiama Michael Phelps, che sapete è l'atleta più decorato della storia all sport. Sì, non uno banale, comunque la realtà, Stefano, che Tokyo sarà the last dance per tanti grandi vecchi dello sport italiano. Abbiamo parlato in questi giorni con Clemente Russo, che insegue ad esempio il sogno della quinta Olimpiade, mai nessun pugile l'ha fatta, e magari anche il sogno di quella medaglia d'oro. Sarà quindi anche un grande passaggio generazionale, soprattutto nel nuoto, che è uno sport giovane per definizione. E allora qui presentiamo il talento azzurro con cui parliamo oggi. Filippo Megli è quinto al mondo, 1:45.67, nuovamente record italiano per Filippo Megli. Filippo Megli, primatista italiano di 200 stile libero. Ciao Filippo. Ciao a tutti, buonasera. Allora, dimmi un po' come stai e che pensieri fai a 12 mesi, oramai meno qualche giorno, dall'Olimpiade che sarà a Tokyo. Allora, io voglio iniziare dicendo che queste telecronache si sentono ancora dall'anno scorso, perché è stato un anno incredibile, a partire dal record italiano, a partire da questo bellissimo quinto posto al mondiale di Guangzhou. Io purtroppo sono reduce da un lieve infortunio che mi ha tenuto fermo oltre quei 2 mesi e mezzo di quarantena e di blocco che sono stati necessari a una ripresa appunto a maggio delle attività. Insomma, dopo oltre questo stop c'è stato uno stop di un altro mese a causa di questo infortunio alla spalla, una spalla instabile che sto trattando tuttora attraverso un percorso di fisioterapia qua a Firenze, dove abito e dove mi alleno. Il percorso che mi porterà a quelle che saranno le Olimpiadi non è ancora stato definito, ma la mia testa, la mia voglia di tornare in acqua è alle stelle, perché vedere tutti che nuotano e io che sono ancora qua a fare fisioterapia, a riprendermi da una spalla un po' in difficoltà, si fa sentire e non fa altro che motivarmi e spingermi a voler tornare in acqua e tornare a quei livelli a cui sono arrivato l'anno scorso. Quindi Tokyo è un obiettivo e anche una piccola ossessione, tra l'altro essendoci messi tutti, ma voi in particolare, voi atleti, alle spalle un periodo davvero strano, incredibile, per chi è abituato tutti i giorni ad allenarsi. Esatto, pensa che forse da quando avevo 12 anni che non mi fermo 2 mesi e mezzo, contate tutte le piccole pause durante l'anno, dal nuotare, perché il nuoto è uno sport di costanza e sensibilità. Non potendo entrare in acqua e non potendo appunto avere quella costanza e quella sensibilità tra le mani dell'acqua, diventa veramente difficile potersi allenare a secco. Quindi sì, questo è l'inizio della ripresa, e la mia ossessione per l'Olimpiade parte già nel 2016, quando per pochissimo io, giovane 18enne, sono rimasto fuori. Avevo altro da fare, avevo la mia maturità da fare, quindi non ci pensavo neanche più di tanto. Però ora credo sia arrivato quel momento, il momento di dare tutto e cercare quell'Olimpo dove i più grandi atleti al mondo si sfidano per contendersi un podio di altissimo livello. È arrivato il momento di salire su quel treno. Stefano Orcobelli, Divina e gli altri grandi nomi a parte, come pensiamo di andarci tra un anno? È talmente una ricchezza di personaggi, di medaglie. Lui ricordava Guangzhou e appunto probabilmente Megli, che ha fatto veramente una grande impresa sia cronometrica, oltre che aver dato il suo contributo straordinario alla staffetta 4x2, che a questo punto diventa quasi la prima, più di quella veloce, favorita per lottare per il podio a Tokyo. Davvero, cioè, Megli rappresenta un po' questa generazione nuova, oltre dopo quella di Federica, insieme diciamo alle quadarelle della situazione, che possono scrivere veramente una bellissima pagina di storia. Consideriamo che ha un epigono importante, cioè la medaglia di Rosolino a Sydney è vecchia di 20 anni, quindi Filippo davvero può tentare di fare qualcosa di eclatante, sia a livello individuale ma soprattutto anche a livello di staffetta. Però diciamo è vicino, soprattutto se davvero Sun Yang non sarà della partita, qua nei 200 stile libero ci sono dei margini, quindi anche per lui. Per cui davvero è un'Italia tutta da pronosticare. L'importante è saper approcciarsi in modo intelligente all'Olimpiade. Io vedo sempre due grandi personaggi come Pellegrini e Paltrinieri, capaci di rispettare un po' quelle che sono le previsioni, le attese, le aspettative, le pressioni. Perché io ricordo prima di Rio, Paltrinieri tutti lo davano per favorito ed è stato un peso pesante sulla sua testa poter arrivare a Rio da favorito e vincere l'oro. E lo stesso era Federica, che tutti la davano, essendo primatista del mondo, favorita per Pechino, e riuscì a vincere col record del mondo. Ecco, la gestione, la capacità emotiva di arrivare all'Olimpiade, perché è un altro sport, non ci sono mondiali europei, non ci sono altri eventi al mondo per uno sportivo che non sia ovviamente calciatore, di questa attesa che è quadriennale, adesso quest'anno quinquennale. Per cui davvero il fattore arrivarci nel modo giusto, preparati sì fisicamente, tecnicamente, ma anche mentalmente, anche di testa, anche soprattutto di testa. Grazie Stefano. Saluti. Grazie a Stefano Orcobelli. Filippo, in bocca al lupo, continueremo a seguirti nei prossimi 11 mesi, quelli che ci portano a Tokyo. Non vediamo l'ora di raccontare questa Olimpiade, il nuoto, l'atletica e le imprese di tutti voi ragazzi che avete dovuto attendere un anno in più. Grazie Filippo. Io vi ringrazio e ci vediamo presto. Ciao, grazie a Filippo Megli. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio ancora Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Paolo Corleoni in regia, Gianmarco Ferronato per i montaggi. L'appuntamento è domani alle 14 e vi ricordo, anche domani saremo in onda fino alle 15.30. Ciao! Minchia, è stato una montagna russa. Grazie ragazzi, grazie, andate in vacanza, divertitevi perché ve lo meritate. Ok. Saluti!